nuovamente in diretta il Breakfast Club di venerdì 10 novembre alle 7:47 minuti dopo il GR di Radio Popolare. Si riprende con altri suoni il percorso di questa edizione ricchissima di Angelica. Beh, io ringrazio per la conversazione con l'appassionato curatore di diversi appuntamenti Walter Rovere, che ormai è diventato redattore per altri suoni. Ovviamente suo buon cuore, se accetta questo incarico, io ne sono molto onorato. Tra l'altro, parlando dell'aspetto che è filo conduttore per due serate, cioè minimal music, abbiamo trovato anche alcuni incontri per quanto riguarda le filosofie di questi aspetti che vanno nei tempi, tutti i tempi, dal passato fino ad arrivare al contemporaneo, no? E lui stesso fuori onda dopo l'intervista, dopo la conversazione, ha detto: guarda che anche nel jazz vi è un aspetto che è molto legato, grandi produttori, minimal music, esecutori hanno sempre sostenuto che il jazz è motivo di ispirazione e viceversa. Beh, non posso che appoggiare questa teoria, perché io stesso, che sono un appassionato inizialmente di black music, poi l'approfondimento nel jazz, e sono sempre rimasto molto attratto da tutto ciò che è legato a queste sonorità e nell'elettronica, come ben sapete. Del resto, Altri Suoni in gran parte propone questi aspetti. Allora, intanto, bando alle chiacchiere, Minimal Music, Museo della Musica, questa sera alle ore 18 vi sarà una realtà di rassegna nella rassegna, curata da Walter Roveri con extra voci nell'ambito della 14ª edizione di Voci dall'Aldilà, curata da Walter. La proiezione, vi ho parlato, ci sarà molto spazio per le proiezioni all'interno di questo nostro Breakfast Club. Les couleurs de prisme, les mécaniques du temps, adesso perdonate la mia così pronuncia francese, che come ben sapete di francese ha solo il difetto di pronuncia della lettera R, però da John Cage alla techno. È un doppio appuntamento, ci fermeremo al primo, poi ovviamente in seguito daremo spazio anche a quello successivo, che sarà, mi pare, giovedì 16, ma di questo ne parleremo nell'avvicinarsi di questa data. Ora iniziamo con questo lavoro di Jacqueline Coe, che è moglie di Daniel Coe, con la partecipazione nella proiezione di artisti e produttori del calibro di John Cage, la Monty Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, Meredith Monk, insomma grandi nomi che hanno portato alla musica, minimal music nello specifico e nell'elettronica, delle note importanti, delle emozioni importanti. Sarà questa sera, appunto, come ho detto, al Museo della Musica a Bologna alle ore 18. Sentiamo nello specifico allora di che si tratta con Walter. Angelica, questa edizione che procede, che stiamo seguendo passo a passo, venerdì 10 novembre alle ore 18 si parlerà di minimal music. Ne abbiamo un'anticipazione qui con Walter Rovere, che saluto e ringrazio nuovamente. Buongiorno con a tutti. Ciao Walter. Allora, di che si tratta? Allora, questo è un doppio evento collegato nelle date del 10 e 24 novembre. Si svolge in collaborazione tra Angelica e il Museo Biblioteca della Musica di Bologna e con la partecipazione di LEDX, ed è, fa parte di Voci dal di là, che è una rassegna di proiezioni che io curo dal 2004 su documentari musicali in prima italiana. Venerdì 10 novembre, appunto alle 18, abbiamo I colori del prisma, la meccanica del tempo, che è un film in prima italiana, alla presenza della regista francese Jacqueline Coe. È regista che ho già invitato tre volte a Bologna per Voci al di là, con film su Luc Ferrari e la Monte Young, e poi per il Festival Pulse con una prima su Jeff Mills. Questo è un film sulla musica minimale che è anche un omaggio a Daniel Coe, il marito di Jacqueline, che è stato un giornalista, organizzatore di concerti, produttore di discografico e radiofonico, e in particolare tutti conoscono più che il suo nome la sua attività, nel senso che è stato direttore artistico delle leggendarie Nuit de la Fondation Maigret e dell'etichetta Shandar. È stato lui per esempio a invitare per la prima volta in Europa San Ra, producendo due suoi dischi anche, e a produrre concerti e dischi di Lamont Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, Charlemagne Palestine. Poi nell'80 è stato uno di quelli che in Europa ha contribuito a far scoprire il postmoderno in musica, organizzando alla Biennale di Parigi concerti di Gavin Bryars, Michael Nyman, Glenn Branca, eccetera. E infine negli ultimi anni della sua vita si è interessato anche alla musica techno, dedicando una serie di interviste per Radio France, autori di dance elettronica, da Richie Ottina e Daft Punk. Il refuso, secondo appuntamento è per venerdì 24 sulla Minimal Music, sempre per quanto riguarda il percorso tutti i tempi, arriveremo alla Detroit Techno, ma ne parleremo. Ho detto 16, ho sbagliato, parola torno indietro, ma ho tante date nella testa, figuriamoci. Poi sapete, più si alti più l'ossigeno arriva in ritardo, quindi ha citato già in anticipo alcuni nomi, Carl Craig, il padre della Detroit Techno, e Jeff Mills, sempre curato da Walter Roberi per Extra Voci nell'ambito di Voci dall'Aldilà. Stiamo ascoltando da Terry Riley nella playlist, che qui abbiamo avuto un motivo di intersezione e di scambio. Ha citato San Ra per quanto riguarda le produzioni, e infatti, allora, San Ra è stato un musicista che per la Actual ha fatto dei dischi con una sorta di minimalismo in jazz. Volevo portarlo, ma poi mi sono attenuto alla ben più precisa playlist di Walter. E infatti stiamo ascoltando. Come base ho ottenuto un disco di Terry Riley in ambito di Droning Music, che è sempre legato alla minimal. Allo stesso tempo ora a Rainbow in the Curved Air, è il brano che sta andando come intervallo tra gli spazi di dialogo con chi ha curato all'interno di Angelica questo motivo di incontro per questa sera venerdì 10 alle ore 18. Cito altri nomi: Steve Reich, di cui ascolteremo il famoso Music for 18 Musicians nel movimento sesto della composizione. Quindi bravo Walter che l'hai detto in italiano, io ho voluto azzardare la pronuncia francese per il lavoro, la proiezione curata e portata da Jacqueline Cook, Les couleurs de prisme, les mécaniques du temps, i colori del prisma e la meccanica dei tempi, ecco così è sicuramente più chiaro nella sua traduzione del 2009, quindi oltre che i suoni, le immagini, presentazione e incontro con la stessa regista Jacqueline Cook. Per quanto riguarda Minimal Music, questa sera, ricordo, alle ore 18 al Museo della Musica a Bologna. Per questo quindi quando Jacqueline Cook ha proposto di fare questo film ai compositori amici di entrambi, lunga data, e tutti hanno accettato, e parliamo di nomi come la Monty Young, Terry Riley, Steve Wright, Philip Glass, Meredith Monk, Paulino Oliveros, Gavin Byers e Richie Hawtin. Hanno tutti preso parte a questo film, che è un film che mostra appunto i legami tra musica minimalista, ripetitiva, postmoderna e techno. La Co è andata ospite, addirittura a volte spesso anche ospite proprio pernottando a casa loro, data la lunga amicizia. L'hanno accolta appunto nella loro casa, hanno suonato per lei, le hanno permesso di filmare delle prove e rilasciato interviste in cui parlano della nascita e dello sviluppo delle loro musiche. È un film che si apre con un video del 70 in cui Daniel Co visitava John Cage a casa sua. Si chiude molti anni dopo, nel 2009, con Richie Hawtin intervistato al Festival Techno di Mannheim. È un film che ha vinto un premio a Los Angeles Cinema Festival di Hollywood nel 2010, e insomma è una prima italiana interessante per chi ha seguito queste musiche. Tra l'altro molti di questi compositori come la Monte Young, Terry Riley, Sherman Palestine, abbiamo avuti Gavin Bryars, abbiamo avuti ospiti ad Angelica. Quindi siamo particolarmente legati, diciamo, a questo filone musicale. Ci sentiremo poi anche per venerdì 24, come hai detto, doppio appuntamento, Detroit Techno, ed è sì, un collegamento nel tempo e nella filosofia, posso dire, di quello che è il minimalismo in musica. La curatera là, certo, di Walter Rovere, ed è una rassegna nella rassegna per l'ambito di Voci dall'aldilà. E appunto noi ci rincontreremo anche per gli altri appuntamenti di Angelica. Per adesso io ti ringrazio tanto e ti auguro buona bene, musica. Grazie a voi. Ciao. Questo è il primo autore che mi ha fatto avvicinare alle composizioni di Minimal Music. Stiamo parlando di Steve Reich, per me fenomeno. queste reiterazioni sonore, questa capacità così in modalità di cambiamento per ogni partitura e l'aspetto, seppur nel minimale, di riempire con l'emozione, il talento. La minimal music è un aspetto delle sonorità di altri suoni molto presente e ne sono anche molto onorato, perché accrescere la conoscenza anche in altri suoni è una cosa che indubbiamente, come nell'immagine di Angelica, alza l'asticella. No? C'è un atleta impegnato a saltare con l'asta un traguardo di un pochettino più in alto, ecco. Quindi ribadisco, questa sera alle ore 18, Museo della Musica a Bologna, Minimal Music, diciamolo in italiano così evitiamo, ma non è detto, è inciampi i colori del prisma, la meccanica del tempo, da John Cage alla techno di Jacqueline Co. Presentazione e incontro con la regista Jacqueline Co, curato da Walter Rovere. Loro sono i Played, ci portano alla pubblicità, rientriamo poi per andare in scena. A tra poco, buon ascolto.